comitato Bertalia Lazzaretto nasce circa un anno fa, dopo che alcuni residenti si accorgono che stanno facendo degli scavi sotto al people mover, e allora si riesce dopo un po' a comprendere che stanno interrando l'alta tensione. Questo dà il via a una serie di, insomma, si comprende che sarà costruito per tutta l'area. Noi un anno fa abbiamo già fatto un primo incontro per far conoscere ai residenti un po' quello che stava succedendo. Con questo incontro che andiamo a fare sabato abbiamo preparato un plastico in modo che sia più evidente, più chiaro quello che il comune vuole fare con i lavori, perché se la gente che abita qua intorno, i residenti, fossero a conoscenza dell'effettiva trasformazione che verrà portata, non credo che siano così entusiasti. Voglio ricordare che si parla qui di andare a impermeabilizzare un qualcosa come 327.000 metri quadrati, quindi tutto il verde che abbiamo qui intorno, il fresco che abbiamo quando viene l'estate, sarà un qualcosa che verrà eliminato, quindi non solo riguarda i residenti, ma anche gli abitanti stessi di Bologna, anche dei quartieri vicino. Già questa zona è una zona già provata da people mover, da rumore dell'aeroporto. Da un lato c'è l'allargamento della tangenziale e dall'altro anche la costruzione di nuovi palazzoni e strade, giusto? Sono palazzi che sono alti oltre i 10 piani, ecco, non sono cose trascurabili. Ciò comporta pure il fatto che le altre abitazioni intorno si troveranno deprezzate, ecco, da questa ondata di edifici nuovi, tutti con i connotati green. Naturalmente. Qui c'è anche un problema, diciamo, di salute, perché in un'area dove appunto la USL certifica il 30% in più di malattie legate all'inquinamento atmosferico rispetto alla media provinciale, cioè in un'area che abbiamo già stressata, poveretta, da aeroporto, tangenziale, autostrada, people mover. Io ho il people mover a 24 metri da casa mia, quindi c'è un progetto proprio per quest'area qui di costruire, e quindi noi immaginiamo già i problemi che ci potranno essere. Abbiamo paura alla luce del fatto che l'ultima volta che ha piovuto molto, abbiamo avuto 10 metri d'acqua sotto il ponte che collega il lazzaretto dall'ospedale maggiore, quindi hanno già abbattuto molti alberi, interrato i cavi dell'alta tensione, quindi noi questo che abbiamo dietro casa nostra lo abbiamo definito, non solo noi ma anche il WWF, un bosco urbano. Sono 12 ettari di terra che verrà praticamente cementificata, abbiamo alcune querce secolari, saranno appunto abbattute, in più all'interno abbiamo la fauna e la flora, cioè abbiamo dei caprioli, fagiani, anatre, aironi, cenerini. È un'ex cava questa qui, rinaturalizzata? Sì, diciamo che ci sono due cave, era un terreno che non doveva essere toccato. Voi avete ricordato anche il sottopassaggio, quello che porta per intenderci all'ospedale maggiore, che si è allagato lì, c'è anche un rischio alluvione. Il problema cos'è rappresentato? Dal ravone? Sì, dal ravone. Poi abbiamo anche il Reno che passa vicino alla tangenziale. L'acqua va giù verso quel ponte lì, perché quel ponte lì è un ponte che è in basso praticamente, perché per avere 10 metri d'acqua, cioè abbiamo fatto una piscina qui quando c'è stato l'altro alluvione. 2 settimane ci ha messo a togliere l'acqua dal ponte. Quindi voi insomma vi opponete a questo progetto dicendo che, come dire, quell'area deve rimanere naturalistica, con altre anche la biodiversità che raccontava, ma perché è anche più sicuro. Noi ci stiamo opponendo più che altro perché loro hanno comunque già costruito in via Terracini, c'è una zona universitaria, c'è la facoltà di ingegneria e stanno già tirando su un'altra università. In più ci sono già la zona del Papeo, diciamo, dove c'è la pizzeria al Papeo, lì hanno già costruito 7-8 palazzoni, più a metà di via Terracini ce n'è altri già 2 o 3 su. Sono già partiti da anni a fare qualche cosa. Poi nel 2027 naturalmente inizieranno a fare la zona green, che sarebbe proprio qua, attaccato quasi al people mover. Il problema maggiore è l'impermeabilizzazione di tutto questo terreno, cioè se ci siamo già allagati così, il nostro timore è proprio di cosa potrà succedere in futuro.